Nell'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Prenditi un rotolo da scrivere e scrivi su di esso tutte le parole che io ti ho detto contro Israele e contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno in cui ti ho parlato, dai giorni di Giosia fino a questo giorno. Forse la casa di Giuda ascolterà tutta la sventura che io sto pensando di procurare loro e si ritrarrà ciascuno dalla propria via malvagia. Così io potrò perdonare le loro iniquità e i loro peccati. Geremia chiamò Baruch, figlio di Neria, e Baruch scrisse sotto dettatura di Geremia tutte le parole che il Signore gli aveva detto nel rotolo della scrittura. Poi Geremia ordinò a Baruch così: «Io sono impedito, non posso andare alla casa del Signore. Tu va e leggi, nel volume che hai scritto sotto mia dettatura, le parole del Signore alle orecchie del popolo nella casa del Signore, nel giorno del digiuno, e le leggerai anche alle orecchie di tutti i giudei che vengono dalle loro città. Forse giungerà la loro supplica dinanzi al Signore, ed ognuno ritornerà dalla sua via malvagia. Sì, è grande l'ira e il furore che il Signore ha minacciato contro questo popolo». Baruch, figlio di Neria, fece esattamente tutto ciò che gli aveva ordinato Geremia il profeta, leggendo sul libro le parole del Signore nella casa del Signore. Nell'anno quinto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, nel mese nono, convocarono un digiuno dinanzi al Signore per tutto il popolo di Gerusalemme e per tutto il popolo che poteva venire dalle città di Giuda in Gerusalemme. Baruch, quindi, lesse nel libro le parole di Geremia nella casa del Signore, nella camera di Gemaria, figlio di Safan lo scriba, nel cortile superiore, all'ingresso della porta nuova della casa del Signore, alle orecchie di tutto il popolo. Ascoltò anche Michea, figlio di Gemaria, figlio di Safan, tutte le parole del Signore che stavano nel libro. Quindi discese alla casa del re, nella camera dello scriba, ed ecco là tutti i principi stavano seduti. Elisama lo scriba, e Delaia, figlio di Semaia, e del Natan, figlio di Acbor, e Gemaria, figlio di Safan, e Sedecia, figlio di Anania, con tutti i principi. Michea, pertanto, riferì loro tutte le parole che aveva udito quando Baruch leggeva nel libro alle orecchie del popolo. Allora tutti i principi inviarono a Baruch Iudi, figlio di Selemia, figlio dell'Etiope, a dirgli: «Prendi nella tua mano il volume che hai letto alle orecchie del popolo e vieni». Baruch, figlio di Neria, prese il volume nella sua mano e si recò da loro. Quindi gli dissero: «Siediti e leggi davanti a noi». Baruch lesse alle loro orecchie. Or, mentre ascoltavano tutte quelle parole, si spaventarono e dissero l'un l'altro: «Dobbiamo assolutamente riferire al re tutte queste parole». Poi interrogarono Baruch: «Riferisci come hai scritto tutte queste cose». Baruch disse loro: «Di sua propria bocca diceva a me tutte queste parole, ed io scrivevo sul libro con l'inchiostro». I principi dissero poi a Baruch: «Va, nasconditi tu e Geremia, e nessuno sappia dove state». Essi poi si recarono presso il re alla corte del palazzo, lasciando il volume nella camera di Elisama, lo scriba, e riferirono alle orecchie del re ogni parola. Allora il re inviò Iudi a prendere il volume. Iudi lo prese dalla camera di Elisama, lo scriba, e lo lesse alla presenza del re e di tutti i principi che stavano presso il re. Ora il re abitava nella casa invernale, si era nel mese nono, e un braciere stava ardendo dinanzi a lui. Appena Iudi aveva letto tre colonne o quattro, il re le stracciava con il temperino dello scriba e le gettava nel fuoco che era nel braciere, finché fu consumato l'intero volume sul fuoco che era nel braciere. Ascoltando tutte queste parole, né il re né alcuno dei suoi servi tremarono né stracciarono le loro vesti. E sebbene Elnatan e Delaia e Gemaria insistessero presso il re che non bruciasse il volume, tuttavia non volle ascoltarli. Anzi, il re ordinò al principe Ierachmel e a Seraia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, lo scriba, e Geremia, il profeta. Ma il Signore li aveva nascosti. La parola del Signore fu rivolta a Geremia, dopo che il re ebbe bruciato il volume con le parole che aveva scritto Baruch sotto dettatura di Geremia, in questi termini: «Ritorna a prenderti un altro volume e scrivi in esso tutte le parole di prima contenute nel volume precedente, quello che ha bruciato Joachim, re di Giuda. Al re Joachim, re di Giuda, dirai: così dice il Signore: tu hai bruciato questo volume dicendo: perché hai scritto in esso così? Verrà il re di Babilonia e distruggerà questo paese e farà scomparire da esso uomini e bestie. Perciò così dice il Signore contro Joachim, re di Giuda: non avrà chi sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato al calore del giorno e al freddo della notte. Io punirò sopra di lui e sopra la sua discendenza e sopra i suoi ministri le loro iniquità, e farò arrivare contro di loro e contro gli abitanti di Gerusalemme e contro gli uomini di Giuda ogni sventura di cui ho parlato loro senza che mi ascoltassero. Geremia intanto prese un altro volume e lo consegnò a Baruch, figlio di Neria, lo scriba, il quale scrisse su di esso, sotto dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco. Furono, anzi, aggiunte ad esse molte altre parole simili a quelle.